Cos'è stato? Samantha? Se diventi grande ha un senso tutto e la prospettiva cambierà. Solo il tempo mostrerà che qualunque assurdità rientrava invece nella normalità. Se avrò da vecchio le risposte, saprò che ci facevo io qua giù. Forse basta crescere per poter conoscere e nulla allora ti spaventa più. Chiedo scusa. Con l'età impari sempre e ti adatti a tutto ormai. Io maturerò e non mi spaventerò guardando un'ombra che minaccia grossi guai. È tutto chiaro quando sei cresciuto. Sono certo che ogni dubbio se ne andrà. Devo aspettare che questo capiti anche a me. Perché da grande ogni cosa